Ricordate, dovete scegliere la formula che non contiene i simboli Cl o N. Invece, l'idrogeno, H, può essere presente, non crea problemi.